Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo e torniamo in diretta dopo due settimane di pausa, di meglio di, come diciamo a Radio 24, torniamo in diretta con il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E non solo, tra poco scopriremo perché. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, sempre in diretta, insieme a Daniele Bellasio, per tutta la attualità della rete dalla rete. Per contattarci 349-238-6666, 349-238-6666, anche se so che ce l'avete in memoria il vostro telefonino, è il numero per gli SMS, ma anche per i WhatsApp. Invece, se preferite usare Twitter, hashtag cancelletto ISDV come iniziali del sabato del villaggio, e il mio account di Twitter @MartaCagnola. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora del sabato del villaggio. L'appuntamento con il gastronauta, cosa più di tendenza che non mangiare in panetteria. I libri con le grandi uscite di questi giorni, insieme ad Alessandra Tedesco, le tendenze in consumi, non possiamo non parlare di saldi, e tutte le istruzioni per l'uso. Ma iniziamo parlando di serie TV, perché questo sarà un weekend di grande attesa. Oh, oh, oh, no. Oh, oh. I give you all of me, but it still ain't enough to make you happy. I give you everything, you still don't measure up. Feel like I walked 5,000 miles and didn't even come close. To make you smile, but you don't need to care, no. Serie TV, e gli appassionati avranno già riconosciuto uno dei pezzi della grande, grandissima serie Empire. Una delle candidate alla miglior serie TV di genere drama nei Golden Globe, che ci saranno tra poco, pochissimo, negli Stati Uniti. C'è chi li chiama l'anteprima, l'antipasto degli Oscar, perché ovviamente parlano anche di cinema, ma noi vogliamo concentrarci sulle serie TV, anche perché poi restano, insomma, l'appuntamento più atteso per gli appassionati di serie TV e appassionati di premi. Non possiamo non iniziare il 2016 con il nostro esperto preferito. Questa volta è venuto a trovarci in studio, ce l'aveva promesso, Diego Castelli. Buongiorno. Ciao, buongiorno. @ Diego Castelli 82, perché sì, è ancora giovane, può tenere l'anno di nascita, poi lo toglierà da Twitter. Sì, a un certo punto, probabilmente. Channel manager di Iris, quindi sì, di mestiere sempre film. Sì. Andata benissimo Iris in queste vacanze di Natale. Siamo contenti, abbiamo passato un Natale sereno. E e quindi ti puoi rilassare e guardare serie TV, che invece è il tuo hobby, perché noi, esatto, ti chiamiamo sempre come esperto di serie TV, Serial Minds, il sito imperdibile. Tu li attendi i Golden Globe? Li attendo con un approccio abbastanza zen, devo dire, ormai negli ultimi anni, perché l'appassionato di serie TV tende ovviamente, come in tutte le cose, a essere tifoso, e quindi ti piace una serie e vuoi che vinca tutto. Ci rimani male sistematicamente. Dagli Emmy ai telegatti, poi succede che non te la candidano neanche, la tua preferita, e allora mastichi amaro, chiunque vinca sei lì con la copertina, i gatti a dire no, doveva vincere lui, dovevano candidarlo. Okay. Ovviamente è successo anche quest'anno, ma ovviamente cerchiamo di passarci sopra, perché sennò. Golden Globe nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, dall'una di notte italiana, vanno in onda sulla concorrenza, lo segnaliamo, perché noi siamo assolutamente super parte su Sky Atlantic HD. Candidature, andiamo a vedere. Abbiamo sentito e sentiamo ancora in sottofondo un po' di colonna sonora di Empire, questa serie ambientata nel mondo della musica rap, hip hop. Se la vedrà con Mr. Robot, sì, Hacker, una delle rivelazioni comunque di quest'anno, perlomeno dal punto di vista dello stile, del far parlare di sé, diciamo. Game of Thrones, che torna. Che torna. Outlander, della quale io so molto poco. Sì, e possiamo dire che a me non piace per niente. Raccontaci un po' di quest'Outlander, migliore serie TV di genere drama insieme alle altre. Tra le cinque è probabilmente quella di cui sono meno esperto, perché io ho visto i primi, credo, tre episodi. È tratta da una saga letteraria piuttosto famosa, ha un'ambientazione, diciamo, tra il medioevale e la guerra mondiale, perché poi si parla di viaggi nel tempo e di trasporti di coscienza, eccetera. Però è una serie anche molto femminile, diciamo, molto romantica. Cioè, quella protagonista è una donna che appunto torna indietro nel tempo e si ritrova a un marito o comunque un compagno, e si ritrova una specie di sosia nel medioevo. Non voglio neanche dire troppo, perché poi i fan magari dicono: ma non la sai, non la stai raccontando bene. Probabilmente hanno ragione, però io ti dico che i primi tre episodi a me non sono piaciuti per niente. Li ho trovati proprio una telenovela clamorosa, e quindi vederla qui ho sbarrato gli occhi, come dire, vabbè ecco. È andata. E poi Narcos, della quale avevamo parlato anche in un appuntamento precedente con RadioTube, che trovate comunque sul sito radio24.it in una delle puntate del mese di novembre. Il 21 novembre era stata la puntata in cui avevamo parlato di serie TV con Diego. Narcos, Netflix, anni 80, cartello della droga in Colombia. Sì. Una delle degli esempi più chiari della volontà di Netflix anche di andare anche produttivamente oltre i confini degli Stati Uniti, diciamo. Sappiamo che produrranno anche Suburra in Italia. Narcos è una serie recitata per metà in spagnolo, tutta ambientata in Sud America, e ha dato veramente il segno di quello che Netflix vorrebbe fare poi a livello mondiale, ed è una grande serie, nel senso, sono tutte belle toste queste cinque, Empire, Mr. Robot, sì, Game of Thrones, Outlander e Narcos. Sono diversissime tra di loro, completamente diverse, sì. Secondo me entrate anche in cinquina per motivi diversi, nel senso che Empire è stato il fenomeno della stagione in termini di ascolti e in termini probabilmente di capacità di andare a prendere target che finora erano stati magari poco coltivati dalle serie TV. Quindi qua parliamo di una serie ambientata nel rap, nella comunità afroamericana, tutte cose che di solito la grande TV generalista statunitense non tratta con particolare attenzione. Poi anche questa, secondo me, ha dall'altra parte grossi problemi dal punto di vista di sceneggiatura. Anche lì è un grande telenovelone, un grande soppone. Sì, alla fine meno di Nashville, sì, che è quella ambientata nel mondo della musica country, però anche questa ci marcia, alle volte anche con una certa autoironia, se vogliamo guardare. Però è chiaro che chi guarda Mr. Robot e è appassionato di Mr. Robot, che invece è molto più cerebrale, molto più intensa e strana nell'approfondimento psicologico del protagonista, dice: ma perché diavolo ci deve stare Empire? E magari i fan di Empire dicono: ma perché ci deve stare Mr. Robot? Quindi diciamo che c'è stata una grande varietà quest'anno nella scelta. Ripetiamo che, lo abbiamo detto molte volte, i Globe non sono come gli Oscar, non solo c'è la TV oltre ai film, ma si dividono drama e comedy, sì, che non è esattamente drammatico e commedia. È tutto molto mescolato. Ma per fare l'esempio di una tipo Orange is the New Black, non si è mai capito ancora bene se deve stare nella comedy o nel drama, perché cambia a seconda della scena e del momento. È sintomo di una fluidità. Poi certo è una cosa che aiuta, perché per esempio ha consentito, nell'anno che ha vinto Matthew McConaughey, aveva vinto per Dallas Buyers Club, e avevano dato anche il premio a Leonardo DiCaprio per il film di Scorsese, così erano stati tutti contenti. È anche un modo per stare così povero DiCaprio, e povero che DiCaprio, se lo meriterebbe qualcosa, si è preso qualcosa. Allora, le serie TV di genere comedy, come dicevi, Orange is the New Black, che non è nei drama ma nelle comedy, sì, e anche qui è appunto singolare, però è una scelta che va fatta, sì, non è una scelta automatica, diciamo, ecco. Una sfida Transparent. Transparent di Amazon, bella, tosta, di Amazon, appunto, anche, sì, qui nuove televisioni, sì, quindi non si sa nemmeno se chiamarle televisioni, sì, però non sono canali che vanno avanti con un palinsesto, sono piattaforme che offrono un certo tipo di contenuti come vuoi, quando vuoi. È un po' il futuro di tutta questa faccenda. Padre che svela ai figli di essere transgender. Un coming out, diciamo, è un racconto molto delicato. In realtà potrebbe sembrare, a raccontare il concept, potrebbe sembrare una cosa fatta per così per cavalcare certe polemiche o certi temi pruriginosi. In realtà no, perché appunto è trattata con molta delicatezza, con molta attenzione anche alle dinamiche familiari loro, e in realtà è quasi più un racconto di quello che succede intorno a lui che non quello che succede a lui. Sì, lui è più normale della famiglia, anche sì, se ha delle scelte di abbigliamento. Sì, perché tutti intorno a lui reagiscono in modi magari imprevedibili, perché subito sono quasi tutti d'accordo, o perlomeno cercano di essere politically correct, di dire per me non è un problema, e poi si scopre che in realtà è un problema anche per loro, quindi non è mai trattata in modo superficiale. C'è stata la seconda stagione, rilasciata da non molto da Amazon, e ha continuato, diciamo, nel solco della prima, e rimane una serie di grande classe, secondo me. Non l'ho ancora vista la seconda, come non ho ancora visto la ripresa di Mozart in the Jungle, anche qui serie non trasmessa da televisione. No, anche in questo caso tradizionale. E anche qui si va a cercare temi persino più di nicchia, se vogliamo, perché qui si parla di orchestre e della vita di chi lavora in un'orchestra, che ha ovviamente poi con una componente di dramma, anche banalmente di relazioni, che ovviamente diventa universale, però va a toccare un tema che di solito non si tratta molto, e diventa interessante anche quasi da un punto di vista nozionistico, no? Andare a vedere cosa fanno le persone che lavorano lì e scoprire che è una vita molto dura, molto difficile, molto che tra la creatività ma anche grande disciplina, quindi anche quella lì è molto bella, molto... È anche un po' di pazzia, sì, un po' di persone insopportabili. Le altre serie a contendersi la Globe per la migliore serie TV di genere comedy sono Silicon Valley, VIP e Casual. Di queste forse in Italia si è parlato un pochino meno. Si è parlato un pochino meno. Allora, Casual è quella che rimane più, in questo momento è, diciamo, semi sconosciuta. È stata una sorpresa, non dal punto di vista degli ascolti, ma più che altro proprio i critici l'hanno notata. È una serie molto carina che tratta di, diciamo, una strana famiglia, sono un fratello e una sorella con la figlia di lei, che cercano appunto di vivere casual, di uscire da una logica comune di devi sposarti e avere figli, o se non ti sposi hai figli allora devi fare una vita pazza. Cioè, ognuno cerca di cambiare questo paradigma per vivere una vita più semplice, e ovviamente fanno molta fatica. Di VIP, vabbè, VIP ha già vinto tantissimo, si parla della vicepresidente degli Stati Uniti, fa molto ridere. Ha già vinto molto, soprattutto la sua protagonista Julia Louis-Dreyfus, che faceva Seinfeld tanti anni fa. E Silicon Valley, devo dire che se vincesse Silicon Valley sarei particolarmente contento. Ah, ecco, quindi il tifo in questa va per Silicon Valley. Un pochino di tifo per Silicon Valley, che parla appunto di un gruppo di ragazzi, di nerdoni hanno inventato un sistema di compressione per i file, che detta così non fa nessuna sensazione, chi se ne frega. In realtà anche quella racconta delle start-up della Silicon Valley, va nel dietro le quinte di quello che succede quando questi cervelloni inventano cose che noi magari fra 10 anni useremo tantissimo, però sono tutti idioti, è una cosa divertentissima, e quindi c'ho proprio affetto per loro come se fossero fratelli, non so come dire. Quindi quella da recuperare secondo te per chi non l'avesse vista, tra queste e Silicon Valley. Sicuramente. Invece non ti ho chiesto tra le serie di genere drama, Empire, Mr. Robot, Game of Thrones, Outlander e Narcos, qual è quella da recuperare, quella per cui tu tifi per il Golden Globe? Se c'è da recuperare, dando per scontato che Game of Thrones l'hanno vista tutti, o se non l'avete vista perché non vi piace, perché non vi interessa, sicuramente Mr. Robot e Narcos sono le mie due preferite, molto diverse una dall'altra. Totalmente, però hanno un... Narcos è più semplice, se uno vuole vedere una cosa che ha anche un tono quasi documentaristico ma incalzante, che non molla mai, Narcos va bene. Mr. Robot è più ricercata, più anche da un punto di vista delle inquadrature, proprio è molto d'autore e può risultare un filino più complicata, però è un po' complessa. Però sì, è molto affascinante, è una cosa che non si vede tutti i giorni, è proprio diversa dalle altre, quindi secondo me vale la pena. Complessa perché si parla di hacker, si parla di cose informatiche complesse, ma si parla anche, si entra proprio nella psicologia di questo personaggio, che è molto strano, cioè ha proprio dei problemi, diciamola tutta, e quindi diventa proprio una grande introspezione, e bisogna dargli fiducia, fede e attenzione, non si può vedere così perché mentre stai stirando, diciamola così. Verissimo, è vero, devi concentrarti. Esatto. presa. Ti faccio l'ultima domanda invece sulle miniserie o film per la TV, perché qui c'è Fargo, straordinaria, sì, contro American Crime, American Horror Story Hotel, e si dice che Lady Gaga abbia invitato Cannavacciuolo per sì, le prossime... Letto questa non cosa, lo so se va sono bene. Quelle cose che girano... sì, quelle cose folli. Un po' folli. Sarebbe bello vederlo, okay. Sarebbe abbastanza straniante. Wolf Hall e Flesh and Bone. Fargo, insomma. Fargo, dire? Che gli vuoi dire? Anche la seconda è stata eccezionale. Si aveva grande paura che dopo la prima, in cui c'erano Billy Bob Thornton, Martin Freeman... Cioè, Freeman, già la paura quando avevano annunciato che avrebbero fatto la prima. Ma la perché serie fate una serie? Film. C'è un film già che è invece bellissima. E la seconda, che perde i due protagonisti della prima, ah no, vedrai, non saranno in grado di reggere il livello. E l'hanno retto serenamente... Sono 10 episodi splendidi che ti vedi proprio senza nessun tipo di problema. Diego, ti chiedo un'ultimissima cosa, perché invece ho un'altra curiosità per concludere. Dacci una chicca. Io ti chiedo sempre, qual è la serie che adesso dobbiamo recuperare in qualsiasi modo? La chicca, dai, qualcosa che di cui non si parla e che ci fai scoprire tu. Allora, ti dico una cosa che poi quando la vanno a vedere dicono, ma veramente tu, grande esperto, ma dovete vedere Galavant. Galavant, adesso sì, me la segno. È una comedy musical. Perché non sembri tanto il tipo tu? Non se, appunto per quello. Io ogni volta che cominciano a cantare mi infastidisco. Questa però che prende in gioco cose tipo Once Upon a Time e comunque tutto il racconto fiabesco medievaleggiante che può succedere. È tutta una parodia in musica. È uscita l'anno scorso. È stata una cosa che proprio non ci si aspettava e ha prolungato il Natale, non so come dire. Cioè, l'atmosfera natalizia prolungata su gennaio è andata così male l'anno scorso che sembrava dovessero chiuderla. Non l'hanno chiusa, hanno fatto una seconda stagione e praticamente la metà del primo episodio è un'unica canzone che si bulla del fatto che non hanno cancellato la serie. Quindi... tutto okay. Meta, tutto così, se volete proprio, come dire, scalda il cuore, non so come dire. Mi piace tantissimo. Diego, grazie per essere stato con noi. Diego grazie Castelli, chiocciola Diego Castelli 82, per il suo hobby, grande hobby che sono le serie TV, il sito è serialminds.com. Invece il suo lavoro vero è quello di essere, si dice, channel manager. Channel manager di Iris, che va benissimo, quindi complimenti Diego e ti aspetto ancora per parlare di serie TV. Quando volete, io sono qui. Alla prossima, noi ci ritroviamo tra poco dopo gli aggiornamenti del traffico. Il sabato del villaggio. E siccome è il sabato del villaggio è il momento del nostro gastronauta, io lo introdurrei così. E mangio pane, pane e sale. Il cielo piove giù, con lacrime d'alto mare, acqua che non si ferma più. Questo era pane, sale di zucchero, quindi non possiamo che parlare di pane. Pane e panetterie sono davvero una tendenza, secondo me l'avete notato anche voi. Chiediamo qualcosa di più al nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buon anno. E buon anno. No, perché ci siamo visti, abbiamo fatto il pranzo di Natale. Esattamente. Fatto questo pranzo di Natale bellissimo, però adesso tocca tornare alle tendenze. Pane e panetterie. Dunque, il pane sale di cui canta Zucchero in Toscana non si mangia, si mangia pane sciapo, quindi sicuramente distinguiamo tra pane e pane. No, è una battuta perché diciamo la caratteristica toscana. Questa. Certo. Ma è proprio le panetterie, secondo me, si stanno sviluppando panetterie dove si mangia per due motivi. Uno, perché il pane, diciamo il consumo di pane è calato, è cresciuta la qualità, ma è calato decisamente, quindi anche le panetterie devono inventarsi in qualche maniera, così dico, per stare al mondo, insomma, perché un po' tutti il fatturato cala e quindi bisogna aggiustarsi, e nelle panetterie cominciano il a fatturato dare dei cala piatti. Il fatturato cala, poi in tanti vanno a comprare il pane al supermercato, anche se non è esattamente la stessa qualità. Poi diciamo molti non mangiano pane, questa è la verità. È vero. E quindi le panetterie stanno inventando, diciamo, di diventare anche... non dico ristoranti, ma per mangiare almeno a mezzogiorno o durante la giornata. ma c'è anche un altro motivo, secondo me molto profondo, che l'interesse per il pane è diminuito il consumo, ma è cresciuto indubbiamente la ricerca. Ormai se uno va in una panetteria, sente la gente che chiede il pane a lievito madre, il pane oppure il pane a lievito naturale, anche qui ci sarebbe un lungo discorso, ma ci porterebbe molto, molto lontano. E non solo, non sa, molti consumatori non sanno che nelle panetterie italiane non c'è distinzione tra pane fresco o pane congelato. E allora, tu quando compri, non lo sai, perché non c'è questa indicazione obbligatoria. Pare che ci sia una legge in Parlamento, che sta per uscire, finalmente anche l'Italia potrà avere questa legge, per cui quando tu vai a comprare il pane, sai se compri pane fresco o pane congelato. E non è poco. Io non è che devo faccio una lotta contro il congelato, per carità, però è giusto saperlo, è giusto cosa si compra. E allora ti dicevo che è nata questa realtà nelle panetterie, dove si cominciano a fare anche dei piatti, ci sono anche dei piatti, qualcuno che fa il pranzo di mezzogiorno. Bene, a Milano ha cominciato Davide Longoni con la sua panetteria, ha cominciato a fare le prime colazioni, perché giustamente noi abbiamo dimenticato molto una prima colazione italiana, che è fatta col pane, è fatta col burro, con la marmellata, e questa dove è meglio di una panetteria, che magari anche alla caffetteria si può mangiare. Quindi c'è stato questo via. Poi c'è Pavé a Milano, che è un altro dove si può fare la prima colazione, c'è il forno di Campo di Fiori a Roma, quindi stanno crescendo notevolmente le panetterie dove si può anche mangiare oltre che comprare il pane. È un fatto anche, secondo me, abbastanza naturale. Non dico che nelle panetterie si mangeranno cose fantastiche, ma avendo il forno possono fare tante cose nel forno. Sì, lo avevamo detto anche nel nostro speciale di Natale, che i panettieri sono bravissimi a fare tante altre cose. Possono mettere anche le lasagne dentro, o tante minestre preparate. Quindi c'è questa tendenza che è collegata a questa ricerca, a volte esasperata, di pane fatto con grani antichi, per esempio. Ora c'è questo boom dei grani antichi. Diciamo che c'è di vero e c'è di meno vero, però molti stanno anche giocando, però c'è questa ricerca. Insomma, chi va a comprare pane oggi chiede anche delle cose migliori, però purtroppo manca l'informazione, manca l'informazione su che cos'è il lievito naturale, perché molti non sanno che il lievito naturale può dire anche il lievito di birra, mentre la madre acida, che è solamente quella dove non c'è il lievito di birra, ma elaborata giorno per giorno dal formaio, dal panettiere, dal pasticcere. Quindi diciamo che il pane di qualità sta tirando dentro alle panetterie, e anche l'esigenza dei panettieri a cominciare ad aggiungere un valore aggiunto al pane, che è il companatico. Il companatico possono essere tante cose, possono essere i salumi, però possono essere anche, come dicevo prima, delle paste, o possono essere anche altre cose che sicuramente sono preparate e non sono fatte a espresso. Questo è un po', diciamo, il boom delle panetterie, che magari caleranno di numero in questo paese, però sicuramente c'è questa volontà e c'è questa qualificazione di molte panetterie a trovare farine migliori, a produrre il pane in modo migliore, con lievitazioni migliori, e quindi questo rende la digeribilità molto, molto meglio. Davide, siamo già pronti per il nostro viaggio? Dove ci porti oggi? Oggi vi porto a Roma, Caput Mundi, anche perché c'è il Giubileo, che sa quanti turisti vanno a Roma. E vi porto come prima meta in una zona molto, molto turistica, che sono Campo dei Fiori. E non è detto che nelle zone turistiche si mangi peggio, perché c'è un po' questa correlazione. Turismo, zona turistica, chissà quali sono appunto i ristoranti, magari si paga molto, si mangia male. Non è così. Campo dei Fiori non è così, a parte la bellezza di Palazzo Farnese, ma Campo dei Fiori ci sono due o tre locali sicuramente dove andare. Il primo è Roscioli, antico forno Roscioli. Come ti dicevo, abbiamo parlato di forno, questo è un forno che si è trasformato in gastronomia e quindi oggi fa prevalentemente ristorazione, che è ristorazione, anche perché se uno va è quasi difficile trovare un tavolo, è diventato veramente molto famoso, non solo in Italia, ma è sempre pieno di turisti che vanno con le guide. Qui si mangia la cucina romana, si mangiano carbonara, si mangia matriciana, si mangia baccalà, si mangiano insomma tutte le paste della grande gastronomia romana, si mangiano anche degli ottimi secondi, perché anche le carni sono molto, molto scelte. Poi c'è un banco di leccornie che Alessandro Roscioli va a scoprire un po' in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi si trovano salumi di primissima qualità e così pure formaggi. Quindi dicevo che questo è un posto sicuramente che dà una certa immagine della romanità. Poi, anche se io mi ero fermata a carbonara, tu mi hai detto carbonara, il resto è tutto troppo per me, cioè, a me basta quello, potrei mangiare solo quello per tutta la vita. Prendo nota. Allora aspetta perché ti darò un terzo luogo dove sicuramente sarà interessante per te sulla carbonara. Bene, a pochi metri in via dei Giubbonari da Roscioli c'è il forno Roscioli del fratello, il quale sforna una pizza bianca che è veramente straordinaria. Questa pizza bianca, secondo me, dentro con due fette di mortadella, magari servita calda, io la ritengo meglio di tanti pasti fatti male. Insomma, una cosa così, magari mentre uno è in giro per turismo, fa questa sosta e mangia questa pizza bianca, secondo me veramente si lecca le dita. E sempre rimanendo in questo bellissimo quartiere romano, c'è un altro ristorante, San Lorenzo. San Lorenzo è un ristorante a tutto pesce. Si entra e si vede un bancone di pesce, ancora io direi che salta ancora, dove si può scegliere il pesce che poi si mangia. E lì direttamente si sceglie il piatto di pesce crudo. Poi dentro sicuramente si possono mangiare tutti i primi a base di pesce, ma anche tutti i pesci, perché diciamo che c'è un collegamento diretto con l'isola di Ponza. Il proprietario diciamo che ha base a Ponza, quindi il pesce arriva tutti i giorni, e devo dire che c'è anche una carta di vino di grandissimo livello, quindi chi vuole mangiare pesce in quella zona può essere accontentato. Non solo, fatti pochi passi in piazza dei Librai, cosa c'è? C'è un posto che si chiama Dar Filettaro de Santa Barbara. Ah, e cos'è? Bello. E cos'è? Innanzitutto una piazzetta meravigliosa, questa piazza dei Librai, con anche diciamo i tavolini fuori. Qui si mangia diciamo il miglior filetto di baccalà, fritto ovviamente, il migliore sicuramente, veramente devo dire che poche volte ho mangiato un fritto così. Si possono aggiungere le puntarelle, e qui sono veramente puntarelle de Roma. Cioè, le puntarelle de Roma sono completamente diverse da quelle che si mangiano a Milano. A Milano sono dure, molto grosse. Lì invece sono molto fini, sono veramente anche il sapore. C'è un sapore molto, molto più forte, molto più netto. Guarda, quindi io cerco di metterle tanto nel ghiaccio, cerco di tagliarle fine, cerco di farle arricciare, le cerco tutte, ma come si mangiano a Roma non c'è da nessuna parte. Ecco, fatele mandare da Roma. Sì. No, ecco, ma mi faccio un giro e le vado a mangiare direttamente lì. Arrivo alla tua carbonara. Oh. Allora, andiamo a Pipero al Rex. Rex è un vecchio albergo romano in via Torino, poco distante dalla stazione, dove dentro c'è Pipero, che è un bravissimo ristoratore, nonché sommelier, nonché intrattenitore, molto simpatico. E qui c'è un cuoco giovanissimo di 20 anni, 22 anni, il quale ha avuto una trovata geniale, io trovo, oltre a essere un grande cuoco, che lui ti offre la carbonara 50 etti, 80 etti, 100 etti, 120 etti. E tu scegli la misura che vuoi in base alla fama che hai, alla fame che hai. Quindi credo che meglio di così, se tu vai a Roma e hai molta fame, vai sul letto, letto 20. Se tu invece non hai molta fame, puoi fare un assaggio, vai su 50 etti. Quindi credo che veramente questa sia un'offerta per il consumatore, per il cliente, molto molto intrigante, anche perché poi si può mangiare anche dopo, perché se uno mangia una carbonara di un etto e 20, poi insomma dopo magari fa molto più fatica, soprattutto se prima è andato a mangiare un po' di pizza bianca, che come si mangia a Roma non c'è da nessuna parte, poi non ce la fa mangiare tanta carbonara. Come dicevo prima, dal forno Roscioli veramente la pizza bianca. Beh, arriviamo, ti do un'ultima fermata, che è da tutt'altra parte, ed è l'Arcangelo. Bene, l'Arcangelo è una trattoria di quelle che chiamo con la T maiuscola, nel senso che è una trattoria, ma diciamo il livello qualitativo di cucina, di vino e anche di ospitalità è pari a un grande ristorante. Ebbene, qui puoi sciorinare tutte veramente le specialità romane. dal il quinto quarto, quindi tutte le frattaglie le puoi mangiare in qualsiasi maniera, cacio e pepe, carbonara, matriciana, e io credo che quando si va a Roma si possono mangiare queste cose in prima battuta. Poi se uno vuole mangiare una cucina veramente straordinaria, allora sale all'Hilton, alla Pergola, al settimo piano da Heinz Becke, e allora lì, vabbè, lì entra in un paradiso particolare, però ovviamente i prezzi sono diversi, il locale è diverso e diciamo la carta dei vini è diversa e il servizio è diverso. Però a Roma il vantaggio è questo, che ce n'è per tutte le tasche, e secondo me a livello di trattoria forse è la città italiana dove si mangia meglio. Di solito si dice che a Roma si rischia sempre la fregatura, così noi invece abbiamo segnato un po' di indirizzi sicuri. Si rischia la fregatura perché ci sono tanti turisti e quindi... No, ma è vero, ma io guarda, a Roma ti potrei elencare, oggi ne ho elencati 4, 5, te ne puoi elencare. Allora facciamo un'altra puntata 10. Su Roma, facciamo un'altra puntata su Roma. Davide, ti chiedo solo una risposta flash su una domanda che ci ha mandato via SMS Luca al 349-238-6666. Come mai si mangia meno pane? Ma si mangia meno pane perché anche la crisi ha toccato anche i consumi più bassi, a cominciare dal pane e la pasta, questo lo dicono i dati, non lo dico io. Secondo me sono sempre le esagerazioni di questi medici, di questi dietologi, che io non amo per niente, i quali diciamo danno sempre questa indicazione: mangiate meno pane, mangiate meno pane, mangiate meno pane. Poi secondo me c'è anche questo boom delle intolleranze e della celiachia, che non porta diciamo a rifiutare il germe di grano e quindi molto influisce sul consumo del pane. Queste intolleranze molte sono vere, parte sono false. Sono d'accordo, grazie Davide per essere stato con noi. Allora aspetto una nuova puntata su Roma, perché visto che ci sono tante mete e incuriosisce molto, ne faremo un'altra puntata. Grazie, vabbè, grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, ti aspetto sabato prossimo, ciao Davide. Ciao, a presto. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Una pausa brevissima e siamo ancora insieme al Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato con il nostro gastronauta e prima ancora con Diego Castelli di Serie TV. La signora Maria da Roma ci ha scritto: 66 anni e sono un po' ignorante. Ma no, signora Maria, siamo noi che siamo un po' troppo fissati con le serie TV. Ci chiede come si fa per vedere Galavant, che è quella che ci ha consigliato Diego Castelli. Allora, signora Maria, noi appassionati di serie TV facciamo delle cose un po' strane, riusciamo ad averle in maniera un po' strane, ma non lo possiamo dire. Facciamo che quando arriva sulla TV ufficiale, sulla TV italiana, io glielo faccio sapere subito, glielo prometto personalmente. Appena arriva Galavant che ci ha consigliato Diego Castelli, io le dico su che canale si potrà vedere in Italia. Canale tradizionale o queste cose appunto on demand su internet, ma glielo faccio sapere. Adesso però nel nostro sabato pomeriggio di Radio 24 di solito a quest'ora aspettate Enrico Pagliarini, però vi facciamo ancora attendere perché ci collegheremo più tardi con lui che sta dall'altra parte dell'oceano. Adesso è il momento delle tendenze. Ciao gattine, eccomi qui con un nuovo video all e shopping. Soprattutto ho fatto shopping, primo round di saldi, oggi sono andata a fare un giro nel centro commerciale Orio e ringrazio tutte le ragazze che mi hanno riconosciuta, mi hanno fermata, mi hanno salutata, grazie a tutte davvero di cuore. Ciao Giammine, allora oggi sono super pimpante perché vi faccio il video dei saldi e ho un po' di cortine da farvi vedere, yeah! Ieri sono stata ieri sono stata a Roma S, oggi andrò a Porta di Roma e... Yeah. Ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi in questo video voglio mostrarvi alcuni degli acquisti saldosi che ho fatto. Everyone. ones that went to bargains galore. Allora, questa era Step Right Up. Tom Waits che parlava, diceva tutto fuori, era un po' una sorta di venghino si o rivenghino. E le youtuber che abbiamo sentito poco fa invece erano tutte le youtuber, le ragazze che fanno i video su YouTube, che in particolare fanno i video haul, cioè comprano le cose e le fanno vedere una dopo l'altra. E in particolare in questo periodo, in questi giorni ovviamente, sono i video haul di shopping di saldi. Incredibile ma vero, ma in rete ce ne sono tantissimi. E con chi possiamo parlare di saldi se non con la nostra Maria Luisa Pezzali? Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora, subito la prima domanda è: cosa ti sei comprata nei saldi? Ma sai che non ci sono ancora andata. No, vabbè, oggi fai ancora in tempo per infatti, un sabato. Infatti ho la lista in tasca ed è piuttosto lunga. Non sei ancora andata? No, perché la ripresa del lavoro, le vacanze prima, insomma. Però ho dei tragitti molto mirati, sono iperscientifica, quindi ce la posso fare. Allora, dacci delle indicazioni su come dobbiamo comportarci nei saldi. Eh sì, perché lo sappiamo, più o meno in tutta Italia sono iniziati il 5, quindi questo è il primo vero weekend di saldi. Il consiglio è quello di puntare su capi e accessori che, per così dire, hanno una speranza di vita piuttosto lunga, quindi che non si rifanno a tendenze che ormai sono in chiusura, che stanno morendo, ma che magari in qualche modo anticipano nei colori, nei tagli, se parliamo appunto di capi, quello che si è già visto in passerella e che arriverà quindi nei negozi nei prossimi mesi. Quindi allora cerchiamo, insomma, a grandi linee di avere un po' di idee chiare su questi punti. Partiamo dai colori. Okay. Quelli che, come ogni anno, svela la massima autorità dei colori, che è la Pantone, diciamolo all'italiana, l'azienda leader ovviamente del settore, ogni anno elegge i colori dell'anno. Per il 2016 ha scelto il rosa quarzo e blu serenity. Sono un po' pastello, però è molto pastello, però no, l'hanno detto loro e quindi noi ci atteniamo. Quello dell'anno scorso cos'era? Il Marsala. Il Marsala. E quindi nei saldi non dobbiamo comprare le cose Marsala, perché era quello dell'anno scorso. Assolutamente niente Marsala. Però bisogna anche dire che tutti gli esperti che ho intervistato, che ho consultato, insomma, dicono che in realtà quest'anno è l'anno dell'estrema libertà per quanto riguarda i colori. Quindi si può un po' osare, si può scegliere il colore che si preferisce, anche perché mi anticipava ad esempio la direttrice della scuola di moda dell'OIED, Sara Azzone, che sarà ospite domani sera in Essere Avere. Restano di grande tendenza per esempio le stampe, quindi i motivi iperdecorati a fiori, modello tappezzeria per intenderci. Io ho una camicia a fiori, infatti. Fantastico, quindi sei assolutamente trendy. E poi le stampe animalier, camouflage, quindi insomma grande esplosione di colori. Ad esempio, di grandissima moda, ma un capo molto difficile da portare, non so cosa mi dirai tu adesso Marta, il completo pigiama. In seta, da usare intero oppure spezzato, si è visto da Gucci, Dolce & Gabbana, spopolerà, dicono gli esperti. Mi piace molto, ma io devo portarlo con i tacchi molto alti. Molto alti, esatto. Perché io sennò sembro veramente in pigiama. Poco coraggio, esatto. No, non lo so, vabbè, gli ci esperti pensiamo. Dicono bisogna osare, buttarsi, vabbè, quindi grandi stampe e completo pigiama. Oppure quando mi vedrai arrivare in radio vestita ti dirò: brava Marta, pigiama. Ce l'hai fatta. Oppure, insomma, in tema di colori, se non si riesce a scegliere il bianco, perché anche il bianco sarà un grande insomma colore di grande moda, quindi sì, ad esempio un capo iper classico come la camicia bianca sartoriale, oppure l'abito, la gonna in pizzo sangallo, perché anche questa è una grande tendenza. E in questo caso, in entrambi i casi, la camicia bianca e l'abito in pizzo sangallo, i negozi vintage possono riservare grandi sorprese. Certo. Poi, come sempre, come già ci dicevi l'anno scorso, compriamo le cose belle nei saldi, che così... Sì, puntiamo sui classici. Ad esempio, ci serve un trench, usiamo i saldi e compriamo il principe dei trench. Fatto. Oppure, brava, oppure il cappotto cammello, anche quello è un grande classico. Fantastico. Usiamo i saldi e mettiamolo nell'armadio, perché ci vuole nell'armadio di ognuna, come il little black dress, quindi il tubino nero classico, insomma, acchiappatele se ci sono le occasioni su questi capi. Per quanto riguarda invece le tendenze di stagione più effimere, diciamo così, la felpa, quella particolare, colorata, magari pizzata, ecco, dicono gli esperti che ha ancora lunga vita. Quindi... Poi la felpa, devo dire, che si trova ancora nei saldi invernali, perché esatto, come clima si poteva usare in inverno e poi si può portare avanti anche in primavera. In primavera. Guardando invece al prossimo inverno, non tanto alla primavera, il gilet di ecopelliccia resterà di moda anche l'anno prossimo. È quello che mi sono regalato per Natale. Ma tu sei veramente informata. Lo metto anche l'anno prossimo, sono molto contenta. Sei contenta. Chiudiamo con le scarpe, il tronchetto resta assolutamente un must, quindi se si trova bello prendiamolo, lo useremo anche l'anno prossimo. E poi le mie preferite, le Mary Jane, le scarpe con la punta tonda e il cinturino. Molto Sex and the City, erano anche quelle di Carrie Bradshaw in Sex and the City, che dopo tanti anni è ancora una fonte di ispirazione. Esatto. Maria Luisa, passiamo già ai consigli anticrisi? Sì, perché la nostra Cristina Lazzati ci darà i consigli antifregatura, in questo caso con i saldi. Ciao Cristina. Buongiorno Cristina, buon anno anche a te. Buon anno a tutti, buon pomeriggio. Allora, eccoci qui. Io prendo nota per i consigli antifregatura, visto che è sempre dietro l'angolo la fregatura. Questo sì, bisogna anche iniziare a non farsi fregare direttamente da se stessi a casa propria. Come Maria Luisa ha appena detto, facciamoci una lista. Perché una delle cose che emergono ancora più delle fregature eventuali che si possono prendere nei negozi è proprio quello che il male che ci facciamo da soli. In linea di massima sembra quasi che il consumatore, che noi quando diventiamo consumatori o clienti, entriamo in un negozio e decidiamo che quello che stiamo risparmiando in realtà è quello che abbiamo da spendere, non so come dire, risparmiamo il 75% e pensiamo di avere un 75% di budget in più. Non è così. I soldi che abbiamo in tasca, decidiamo quanto vogliamo spendere nei saldi e cominciamo pensando a quelle cose classiche. Poi ha ragione Maria Luisa quando dice puntiamo ai capi classici, tenete conto che i negozianti comunque fanno il loro lavoro e sui capi classici di alta qualità lo sconto è pochino o addirittura nullo. E qui iniziamo con le piccole regole di quando entriamo in negozio. Sappiate che comunque il negoziante non è tenuto a saldare tutta la merce, può tenerne una parte non saldata del suo pieno diritto, mentre, così come sempre sul pieno diritto, quello di non farvi provare la merce in saldo, ma diffidate da tutti coloro che non ve la vogliono far provare perché c'è sotto qualcosa. Quindi esatto, loro hanno il diritto di non farvela provare, ma voi a quel punto saltate il negozio e passate al prossimo. In più la questione dei resi, allora anche lì è una questione un po' particolare, perché di fatto abbiamo sempre il diritto di rendere un capo che per qualche motivo è difettoso o malandato. Detto questo, non abbiamo invece il diritto di renderlo se non ci piace più o se tornati a casa appunto perché abbiamo sbagliato i nostri conti, oppure quel capino tanto dimagrirò e invece no, non c'entra niente il Natale, la buffata eccetera. Se siamo una 44 non diventeremo 42 dopo un gennaio anche passato a stringere la cinghia, beh quel capo invece non si può rendere se la regola è non si accettano resi sui saldi. C'è anche la questione del prezzo. Allora, i saldi sono ben specificati, c'è una percentuale 50, 40, 30 eccetera sul prezzo di origine. Il prezzo di origine deve essere ben visibile, controllato che non sia taroccato, perché ahimè alcuni hanno questa cattivissima abitudine di alzare il prezzo all'origine in maniera da aumentare il saldo ai nostri occhi. Però se ci siamo un po' organizzati prima dei saldi, abbiamo adocchiato quei capi che avremmo voluto e se abbiamo la fortuna di ritrovarli nella taglia giusta, più o meno cerchiamo anche di ricordarci i prezzi che avevano all'origine. Nel caso in cui il prezzo invece fosse stato variato e noi abbiamo le prove, da questo punto rivolgetevi all'Unione dei Consumatori che tirerà le orecchie al negoziante. Ovviamente meglio i prodotti di marca nota, perché altrimenti ci sono tutti quelli che si chiamano sounds like, no? Che suonano come, ma che non sono effettivamente quelli della marca, i Fucci invece dei Gucci, i Fendi invece dei Fendi, ecco questi, ma questa è una regola che vale sempre a prescindere dai saldi, ma diciamo che in questo periodo magari si affollano un po' di più intorno a quelli che sono insomma il nostro desiderio di avere questi oggetti appunto del desiderio, che magari ci fanno diventare un po' ciechi davanti all'evidente all'evidente disonestà dell'offerta. Così come i super super fondi di magazzino, Cristina, esatto, che nei saldi spuntano. Così come ci sono ormai, questa è una bruttissima abitudine che viene dagli Stati Uniti, delle produzioni ad hoc. Ah certo. Sì. Verissimo. Quindi ci sono delle, cioè voi entrate in un negozio strapieno durante i saldi, o poverino proprio gli è andata malissimo, oppure quella merce lì non era merce che ha venduto nel periodo normale. Quindi fondi in magazzino, i prodotti che sembrano come ma mancano di finiture, magari con la stessa marca, però di fatto sono stati fatti apposta, così come esistono delle serie fatte apposta per gli outlet. Per gli outlet. Questo magari è un bel tema, lo affrontiamo nelle prossime puntate. Sì, sì, sì, molto, sì, interessante. Molto interessante. Esatto. Poi alla fine cosa ci dobbiamo ricordare? Che il controllate le taglie, soprattutto se sono a due pezzi, perché in alcuni casi magari se il cliente prima è stata fatta la furbacchiona, la commessa non se ne è accorta e voi vi portate a casa una giacca 42 ma un pantalone 48, e lì, per quanto sia bello sentirsi sempre un po', come dire, un po' larghine, dice oddio sono dimagrita, in quel caso no, non siete dimagrite, ma vi hanno proprio fregato nel precedente acquisto. Controlliamo le etichette anche di composizione, e quello in generale, anche se la marca non la conoscete, chiaramente i capi in fibre naturali dovrebbero costare un po' di più delle marche invece delle fibre non naturali. Questo vale per il midollo ovviamente, perché poi nel momento in cui si va nell'alto di gamma, lì le composizioni sono più legate alla ricerca e sviluppo che al fatto che sia 100% cashmere oppure di un materiale particolarmente tecnologico. Infine, i saldi sopra 70, sopra 50%, anche quelli puzzano un po'. In quel caso i capi devono essere pochi, sono proprio le rimanenze, per cui rimane, non so, un paio di scarpe 35 piuttosto che un cappotto 52. Ecco, in quei casi lì ci può stare, perché è proprio questione di liberare il magazzino, ma in altri casi invece diffidiamo. Esattamente. Ho preso nota e farò molta attenzione. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. A sabato prossimo. Grazie a voi e buono shopping a tutti. Ciao. Ciao. Grazie Cristina e buono shopping anche a Maria Luisa Pezzali, che non ha ancora fatto acquisti nei saldi. Io al prossimo vado subito. Sabato. Ciao, allora. Ciao. Ciao. Il sabato del villaggio. E visto che abbiamo parlato di consumi e di cose belle, vi segnalo che da ieri in edicola c'è How to Spend It, il mensile di Luxury e Lifestyle del Sole 24 Ore, lusso e non solo, perché ad esempio c'è una bellissima pagina con Tullio De Mauro, professore emerito di Linguistica Generale alla Sapienza di Roma, che spiega la ricchezza e il lusso e quanto è soggettivo il lusso. Molto molto bella, una pagina che mi sono ritagliata perché me la voglio leggere con calma. Adesso però al nostro sabato del villaggio è il momento dei libri. Sì, però cioè, l'aria sulla quarta corda fa subito quark, non c'è niente da fare, lo so, mi dispiace, ma fa subito effetto quark. Credo non solo a me. Buongiorno Alessandra Tedesco, ma dobbiamo parlare di cosa parliamo? Alessandra Tedesco è un animaletto che si aggira normalmente per esatto. le stanze di Radio 24. Dall'altra parte del vetro c'è Pippo DJ, che non vuole svelare il suo vero nome, che fa parte di un quark. Non mi riesce bene. Perché Alessandra? Perché siamo fuori di testa, Marta, per questo mettiamo la musica quello poco di ma sicuro. Quello poco ma sicuro, ma cosa c'entra con i libri? Qual è il fenomeno di cui dobbiamo parlare questa settimana? Secondo te vediamo un po'. Quark che ti fa venire in mente, dai. Piero dai. O Alberto Angela. Noi parliamo di Alberto Angela perché è un fenomeno che ci stiamo portando dal 2015, ma che continua ancora nel 2016, si continua ancora a parlare di questo suo libro che si intitola San Pietro, segreti e meraviglie in un racconto lungo 2000 anni. Scritto naturalmente da Alberto Angela e pubblicato da Rizzoli. Ma è vero che lui ha fan scatenati e scatenate? Sì, te lo posso assicurare, ci sono le persone, diciamo, della casa editrice della Rizzoli che organizzano appunto le presentazioni di libri. Lui sta ore, ma ore vere, un'ora, due ore, anche tre ore a firmare autografi, perché si presentano veramente centinaia di persone alle sue presentazioni dei libri, e lui è una persona, devo dire, molto gentile, molto disponibile, fa sempre una dedica, non solo, come dire, una sigla sui libri, quindi ci perde, come dire, ci perde anche molto tempo. È molto amato, devo dire, da fasce trasversali, da giovani a persone più âgées, mettiamola così. Chiaramente poi questo libro, tu vai a scrivere un libro sui segreti di San Pietro, il Vaticano, l'anno del Giubileo, cioè tac, hai fatto subito bingo, insomma, sì. Sempre con quel suo stile molto, molto divulgativo, che cerca di spiegare, appunto, cerca di creare anche un mistero. Perché San Pietro è stata costruita esattamente? Esattamente in quel posto. E poi ci sono delle immagini in questo libro, quindi insomma è un libro ricco sia di aneddoti, di curiosità, per fortuna appunto è un libro molto divulgativo, non è un libro assolutamente noioso, e poi ci sono delle bellissime immagini, delle fotografie, quindi si possono, come dire, scoprire i segreti quantomeno artistici del Vaticano. Qui non siamo nell'area Nuzzi Fittipaldi, non siamo in Vatilix, ma siamo nei segreti più che altro anche artistici, perché si parla delle opere che sono presenti in Vaticano: Michelangelo, Raffaello, Bernini, Giotto, Bramante, insomma chi più ne ha più ne metta. E lui, niente, Alberto Angela ha un fascino particolare. Vedi, avevamo parlato del successo di pubblico alle presentazioni di Fabio Volo, invece anche Alberto Angela. Anche Alberto Angela. E devo dire, Marta, che quando mi è capitato di conoscerlo personalmente, adesso faccio una confessione, all'inizio dell'anno, via, liberi tutti, e me l'hanno giustamente presentato Alberto Angela, io ho dato la mano e sono scoppiata a ridere. Perché ho pensato all'imitazione di Neri Marco Re. Ma fai fare le brutte. Lo so, gliel'ho dovuto dire, ho fatto perdonami Alberto Angela, però io ho pensato a Neri Marco Re, e lui, devo dire, molto sportivamente ha detto sì, effettivamente lo fanno in molti, mi succede spesso. Ti mandiamo in giro e ci fai fare le brutte figure, Alessandra, succede. Cosa hai letto in questi giorni, tu, in queste vacanze? Perché ci eravamo lasciate con tutti i buoni propositi per le letture delle vacanze. Io ho fatto solo cattivi propositi, no. Io ho voluto leggermi con estrema calma e non con l'ansia del lavoro. Quindi me lo sono proprio gustato nella settimana di Natale, proprio bello. Un libro che si intitola Il romanzo della nazione, l'ha scritto Maurizio Maggiani, pubblicato da Feltrinelli. Maurizio Maggiani, forse lo ricorderete, aveva vinto il Campiello nel 95 con Il coraggio del Pettirosso, un altro bellissimo romanzo. Sì, questo sì. È proprio un romanzo letterario. Lui che dice, la mia vita, io non sono un personaggio famoso, non sono Obama, non sono il Papa, dice, però ogni vita è una grande vita, ogni vita può essere una grande storia. Quindi prendendo spunto della sua vita, quindi il rapporto che aveva col padre, con la madre, con le zie, con i suoi parenti, poi il periodo in cui è cresciuto, insomma la giovinezza, l'impegno politico, così diventa la sua storia, diventa simbolica della storia di una nazione. Ma lui parte dal presupposto che qualunque nostra storia può diventare la storia di una nazione. È un libro bello, letterario, quindi va letto veramente con calma, non velocemente, perché bisogna gustarlo parola per parola. Il romanzo della nazione, Maurizio Maggiani, Feltrinelli. Molto bello. Allora, abbiamo notizie di uscite imperdibili in questi giorni? Allora Marta, cosa dobbiamo... Sì, ecco, ti dico che ovviamente in questo è il periodo dell'anno in cui si dice che cosa leggeremo nel 2016, infatti la puntata del Cacciatore di Libri. Precipitarci a comprare librerie per fare subito bella figura, perché hai comprato già e hai già letto il fenomeno. Ma sai già chi uscirà nel 2016? Stasera la puntata del Cacciatore di Libri, in onda alle 22, parlerà proprio nel dettaglio di tutte le grandi uscite del 2016, quindi scrittori famosi, italiani e stranieri, ma anche esordienti da tenere d'occhio, perché guarda che spesso ci abbiamo poi azzeccato, alla fine dell'anno abbiamo visto che hanno avuto successo. Sono naturalmente le segnalazioni delle case editrici, quindi sono loro che fanno un po' il bello e il cattivo, certo, tempo. Bisogna avere il polso della situazione per capire quale sarà il fenomeno. Esattamente, allora ti posso dire che nei prossimi giorni, a chi era piaciuto Non dirmi chi hai paura di Giuseppe Catozzella, siamo ancora con Feltrinelli come casa editrice, esce il suo nuovo romanzo che si intitola Il grande futuro, esce il 14 gennaio. Lui aveva avuto grande successo con questo Non dirmi chi hai paura, che era la storia vera di questa atleta somala che aveva partecipato alle Olimpiadi in Cina, arrivando ultima, correva insomma, e che purtroppo poi è morta nel Mediterraneo cercando di arrivare in Italia, quindi sbarchi, immigrati, sì, clandestini e così via. Stavolta ci regala un'altra storia in cui c'è il mondo islamico e c'è anche la guerra. Ci sono due ragazzini, Amal e Ahmed. Uno è figlio, insomma, di un pescatore di servi, l'altro invece è figlio del signore del villaggio. Fra loro due si crea un'amicizia particolare, fino a che la guerra, naturalmente, le tensioni non li porteranno a dividersi. Molto interessante questo periodo. Non cercatelo oggi in libreria, esce il 14. Esce il 14, però se avete amato Giuseppe Catozzella con Non dirmi che hai paura, molto probabilmente vi piacerà anche questo. La prossima settimana lo consigliamo a chi ha amato appunto l'altro libro di Giuseppe Catozzella. Fenomeni di cui parleranno tutti, altri fenomeni di cui parleranno tutti. Guarda, è appena uscito ieri e io ci scommetto che sarà uno dei libri di cui si parlerà in questo primo mese di gennaio, soprattutto da parte delle ragazzine, delle adolescenti. Ah, quindi mamme e papà di adolescenti all'ascolto, prendete nota. Se dovete ancora regalare, magari sono i compleanni, adesso è passato Natale, Capodanno, la Befana, però i libri si regalano sempre, per fortuna. C'è questo che si presenta come nuovo fenomeno italianissimo. Lei si chiama Sabrinex, ha scritto un libro che si intitola Over, un'overdose di te, pubblicato da Rizzoli, l'avete capito già dal titolo, insomma è una storia romantica, è uscita appunto ieri, è una fanfiction ispirata agli One Direction. Ah, come After! Esattamente. Allora, la cosa curiosa è che proprio come After di Anna Todd, che è diventato un fenomeno internazionale, insomma grandissimo successo, anche l'italiana Sabrinex, di origine africana comunque, ha iniziato a scrivere su Wattpad. Wattpad, tu lo sai meglio di me, naturalmente è un social network su cui si possono postare piccoli racconti, articoli, scritti, eccetera. E lei credo che abbia qualcosa come 2 milioni di, come si chiamano? Follower si chiamano su Wattpad. Non lo so, io non sono così pratica di Wattpad. Però, insomma, qualcuno lo chiama il social network degli scrittori, per essere precisi. Per essere fichi. Dove vai se Wattpad non ce l'hai, e insomma. Questo è uscito ieri. Quindi questo è già in libreria. Se le vostre figlie vi hanno nominato ogni tanto Sabrinex su Wattpad, allora finalmente è uscito il libro cartaceo. Un overdose di te, over, fantastico titolo. Uscite, so che c'è previsto un Camilleri. Allora, per tutti gli amanti di Andrea Camilleri, come sempre sapete, lui scrive tantissimo, quindi non c'è bisogno di aspettare maggio, perché normalmente a maggio Sellerio pubblica il suo Montalbano, ma possiamo già prenotarlo sia in libreria che online, perché uscirà verso il 19-20 gennaio il nuovo romanzo che ha scritto per Mondadori, Noli Metangere. Io dico sempre che di Camilleri preferisco più i romanzi non Montalbano che i Montalbano, ma questa è una mia, così, è una mia perversione, non lo so, chiamatela come volete. Anche stavolta Camilleri gioca sul filo sottile. I suoi romanzi non Montalbano hanno sempre una certa sensualità mischiata a qualcosa di nero, a qualcosa di strano, a un mistero. In questo caso la protagonista è Laura, una donna molto affascinante, sposata con uno scrittore. Lei tradisce ogni tanto il marito perché le piace proprio il concetto della passione, del darsi agli altri, ecco, diciamo così. Però ogni tanto va in una fase sua psicologica in cui, che lei chiama Ghibli, in cui lei non vuole essere toccata da nessuno, da cui il titolo Noli Metangere. A un certo punto questa Laura scomparirà. E allora, diciamo, il commissario del caso, che non è Montalbano, ricostruirà la sua vita e il perché di questa fase del Noli Metangere attraverso le indagini che farà per ritrovarla. Come i concerti, aperte le prevendite, aperte le prenotazioni, a presto arriverà quindi questo nuovo Camilleri. Tutti i fan sono già avvertiti. Ah, guarda, tutti i fan, ma tanto lo sanno che di Camilleri c'è sempre qualcosa in pentola. Lui ha già un sacco di Montalbano scritti, deve solo aspettare di pubblicarli. Che uomo straordinario. Ma gli piace tanto scrivere veramente tanto tanto tanto, adesso più che altro detta, perché insomma un po' di problemi di vista, però insomma i libri sono suoi, di fatto li scrive lui. Che uomo straordinario. Alessandra, io avrei moltissimi altri libri di cui vorrei chiederti, però secondo me il tempo a nostra disposizione si è concluso, quindi io darei l'appuntamento al Cacciatore di Libri. Eh sì, stasera alle 22 saprete veramente quali saranno quelle che naturalmente sono già state dichiarate le grandi uscite editoriali del 2016, un po' di tutte le case editrici. E il podcast su radio24.it. Grazie Alessandra. Finiamo ancora con Alberto Angela? Vogliamo ancora Alberto Angela? Ah, vogliamo, dai, ancora sì. Quark? Vabbè, dai, l'aria sulla quarta corda per salutare Alessandra Tedesco. Ciao. Marta Cagnola è una giornalista di Radio 24 che normalmente si occupa di spettacoli, cinema e tutto quello che può far piacere nel tempo libero. Ciao Marta, ti saluto perché sennò al qua mi arrestano. Al prossimo sabato! Ciao. Sabato del villaggio. E dopo il GR24 delle 16 torniamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E poi sempre in diretta fino alle 18, perché dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma scopriamo insieme adesso i temi della seconda ora del sabato del villaggio di oggi. Parleremo di musica con il ritorno di David Bowie. Non è l'unico attesissimo ritorno per questo 2016 e sentiremo insieme intanto com'è questo disco di David Bowie e cosa dobbiamo ancora attenderci per l'anno appena iniziato. Andremo a Las Vegas, tra poco raggiungiamo Enrico Pagliarini con tutte le novità dal Consumer Electronics Show, le novità al cinema poi con Franco D'Assisti, prima però ancora due grandi, grandissimi della musica. Siamo quelli che son cuccioli del mondo, che inseguono le nubi e cantano alla luna, che sotto la tempesta vanno fino in fondo e puntano il domani contro la sfortuna. Noi siamo quelli che son spiccioli di storia, piccoli grandi eroi di cui nessuno ha mai memoria. Claudio Baglioni, lo sentiamo, e Gianni Morandi tornano insieme. Ce li ricordiamo, il tour 12 date pazzesche che ci hanno tenuto compagnia anche in TV e che sono andate in scena a Roma al Foro Italico. Adesso il 5 febbraio quelle date diventano un doppio album dal vivo, Capitani Coraggiosi in live, ma soprattutto noi siamo molto contenti perché quelle 12 date di Roma diventano un tour in tutta Italia. Si parte da Padova il 19 febbraio, si andrà poi Milano, Napoli, Firenze, Acireale, Torino, Bologna con doppie e triple date. Straordinari Capitani Coraggiosi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, li abbiamo incontrati e ci hanno spiegato se si sentono più capitani o più coraggiosi. Io l'ho detto molte volte che poteva bastare. Io sono Claudio, la parte del capitano Claudio. Io penso che siamo più coraggiosi che capitani, però alla fine a forza di essere coraggiosi si viene promossi capitani. Io ho sempre fatto il soldato semplice, adesso sono un capitano in seconda naturalmente, perché io la guida l'abbiamo identificata che la fa Claudio. Mi sento molto felice di ripartire, quindi con coraggio, con il cuore, affrontare la gente, affrontare migliaia di persone, le arene, i grandi spazi, ritrovarmi proprio in mezzo alla musica, in mezzo a questa avventura. Tra l'altro mi piace moltissimo cantare le canzoni di Baglioni, quindi non vedo l'ora di ricominciare. Ma posso venire anch'io, quindi questo presuppone che questo ma sia lo fa un lui invito. Un concerto con le tue canzoni e basta. No, ma ce le scambiamo le canzoni, io canto le sue e lui qualcosa delle mie anche, no? È quello che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto per 12 sere, lo sanno tanti. E infatti è stata un'esperienza bellissima per il pubblico, perché ha vissuto delle emozioni straordinarie. Per voi, guardandovi indietro, cos'è stata? Perché poi quando uno la vive, la capisce di più forse quando si guarda indietro. Allora, io confesso che quando eravamo il pomeriggio dell'ultima sera del dodicesimo concerto, ho detto non vedo l'ora che finisca, perché ero stressatissimo, perché è stato un grande lavoro che abbiamo fatto insieme già da mesi prima, l'avevamo messo su, abbiamo cominciato a lavorare prima noi due, poi con i nostri musicisti, gli altri compagni di lavoro, tutta la fase spettacolare, quella televisiva. Però certo che ecco, quando abbiamo finito, insomma, un po' di senso del rammarico c'era. Abbiamo fatto sempre il brindisi, il discorso retorico, tante persone che erano a vederci hanno detto dai, dovete andare in giro, dovete continuare, una cosa così non si può lasciare, e noi dicevamo no, per carità, insomma, ci facevamo un po' desiderare. E poi ecco, in questo Gianni che è più da corazon e più decore, direbbero nella vecchia capitale italiana, beh, lui prende spesso proprio questa iniziativa, è quello che si lancia per primo nell'azione. E allora ha detto ma come facciamo, abbiamo fatto delle belle cose, abbiamo riascoltato le registrazioni dei 12 concerti. E poi sai, mi dice, che facciamo? Vogliamo continuare a farci del bene? Ebbene, l'abbiamo fatto. Bello, farsi del bene, è bellissima questa espressione, farsi, sì, continuare a farsi del bene. Tra l'altro io, insomma, ho conosciuto meglio Claudio, a parte cantare le sue canzoni è bellissimo perché è un repertorio incredibile, però noi ci conosciamo da più di 40 anni, però conoscersi in questo modo, proprio in questa maniera quasi intima, dove uno entra dentro la storia dell'altro, nella sua musica, nella sua vita, è stato l'aspetto più interessante, più pieno di ricchezza proprio. E devo dire, ho scoperto anche una persona molto generosa, molto meticolosa, ma anche molto attenta al lavoro degli altri, al rispetto, è stato sempre molto premuroso nei miei confronti, quindi non vedo l'ora di ripartire. Io e i miei oscuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramo, dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Siete anche molto presi in giro in quelle date, vi siete travestiti, vi siete presi in giro a vicenda, avete tirato fuori qualcosa che forse avevate tirato fuori un po' meno, avete riscoperto un lato di voi stando insieme? Ma insomma, la presa per i fondelli è necessaria per sopportarsi così tanto tempo, altrimenti non ce la faresti. Io credo che in qualsiasi tipo di coppia, la nostra è artistica, altre coppie sentimentali o di amici o di colleghi di lavoro, ecco, è fondamentale che ci sia questo aspetto. Primo perché sicuramente riconosciamo delle differenze, delle affinità, però poi certe cose magari non ci stanno bene. Allora è bellissimo avere un palco in questi casi, perché te lo puoi raccontare davanti a testimoni e non hai l'imbarazzo di essere da soli, perché quando c'è, capito, qualcuno che osserva e che vede, allora ti viene fuori quel sano esibizionismo per raccontarsele tutte. Quando ci dovevamo dire qualcosa ce lo dicevamo sul palco a mo' di battuta, no? Magari io sbagliavo un accordo, una parola o un movimento o qualcosa che lui sottolineava, me lo diceva in pubblico, così facendo finta di Se me l'avesse detto in camerino, invece, guarda che hai sbagliato questa canzone, hai sbagliato questa, avrebbe avuto un altro, probabilmente un altro senso. No, dai, ci siamo conosciuti, ci siamo divertiti. Non posso smentire questo, perché vabbè, oltre a... Puoi smentire? No, o non puoi smentire? No, voglio dire, voglio smentire. Ah, mi dissocio smentire? Da quello che hai detto, perché... Baglioni si dissocia. Io mi dissocio. E mi appello adesso alla mia smentita. Cioè, voglio dire questo, al di là di tutti i pregi che sono riconosciuti a Gianni Morandi, dalla gran parte delle persone, e io devo dire che con lui, con lui non si sbaglia quasi mai, perché non è permaloso, e è una cosa quasi rara, oramai scomparsa, trovare una persona che, voglio dire, insomma, siccome non è un, come dico, non è un ragazzino, un pischello alle prime armi, e quindi ha veramente, insomma, un'autorevolezza e anche un'autorità che può far valere. Però, ecco, con Gianni si lavora bene per questo motivo, perché è in grado di... è un bel incassatore. E questo... Forse le cose dette a un altro artista... cosa? Avrebbero resistito gli altri? No. Ma io forse, però l'ho anche detto, perché lui dice che è bello cantare le canzoni. Allora, io dico la stessa cosa, perché lui è stato interprete e quindi in qualche maniera oramai sono sue, insomma, è quasi un super autore di tutte le cose che ha cantato e ci ha raccontato in tutti questi anni. Però io pure ho avuto la stessa piacevolezza nel poter cantare tanta bella roba che lui aveva già fatto, e anzi anche un po' il timore di non essere all'altezza. Però lui pure si è infilato in un repertorio non facile per un cantante come il mio. E gli ho sempre detto, guarda che tu sei veramente uno dei pochi, capito, a poter fare qualcosa di questo tipo, e per questo sei ben accetto. Ragazzi, cioè, Baglioni e Morandi veri, cioè siete quelli veri, è una cosa, io non ci posso credere. Ebbene sì, siamo ancora noi, non si sa per quanto, affronteremo in un mese 23-24 concerti. Non 150.000 persone. Non si sa come ne verremo fuori. Come se non bastasse, a parte avesse questo documento live, che vabbè, questo è depositato verso la storia. Io lo devo dire alla radio perché non si vede, due fighi pazzeschi. Diciamolo, perché questa è l'unica cosa che ci dà soddisfazione. Per il resto, che uno sappia cantare e suonare, non ce ne frega proprio niente. Il sabato del villaggio. They're all living a devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. No, non stavo tornando in onda perché me ne stavo ballando questa Viva Las Vegas del mio grande amore Elvis. Ieri era il compleanno di Elvis, l'8 gennaio, perché Elvis è sempre vivo, lo sapete. Ma perché Elvis Presley? Perché andiamo a Las Vegas, Viva Las Vegas, ci colleghiamo con un... assonnato, secondo me, perché sono le 7:17 a Las Vegas in questo momento, credo. Enrico Pagliarini, Enrico, ciao, ci sei? Buongiorno, buongiorno. Ma no, no, dai, la voce è bella sveglia. No, no, è bella sveglia la voce. Male, no? Beh, però sì, devo dirti che mi hai mandato un messaggio alle nostre 11, quindi sei andato a letto un po' tardi, eh? Sì. Ecco, sì, perché ecco. Sei andato al casinò? Allora, sembra strano, però ci sono passato tutti i giorni, perché chi viene a Las Vegas, e devo dire che sono più di quelli che sembrano, perché non è una città solo turistica, qui ci sono un sacco di fiere di qualsiasi genere, non c'è solo il Consumer Electronics Show di cui parleremo, quindi molti italiani sono venuti a Las Vegas per business. Probabilmente si sono buttati anche sulle roulette, sulle altre diavolerie dei casinò, e io non ho fatto in tempo, perché devi sapere che, allora, ieri dopo cena mi ha scritto uno dicendo: ah, se vuoi ci incontriamo, perché uno dei problemi del Consumer Electronics Show è che fatichi a incontrare tutti quelli che hai programmato, perché è talmente gigante. Certo. In questi giorni ho detto che è un non-human event, cioè è talmente gigante che una persona sola, e giusto per avere un'idea, i grandi siti internet americani, quelli di tecnologia, sono qui in 60, 80, cioè una cosa. Cioè giornalisti? O... Sì. 60-80 giornalisti? Sì, sì, ho incontrato persone che di fatto non hanno un'idea generale di quello che sta succedendo, perché c'è chi viene qui e fa solo wearable e quindi si occupa solo, poi wearable, magari sono 10 che fanno wearable e uno si occupa dei braccialetti, uno si occupa degli smartwatch, uno si occupa dei sensori per lo sport, sono specializzati nel, proprio all'estremo. Sì, sì, allora no, Enrico, posto che non vedo l'ora che tu ritorni, anche se sono contenta di saperti in mezzo a cose belle, non vedo l'ora che tu ritorni perché mi devi raccontare tutto, però dobbiamo condensare... Cioè anche quello che non si può dire alla radio, tu dici? Certo, soprattutto quello che non si può dire alla radio, caro Enrico. Ma devi condensarci nei pochi minuti del nostro collegamento del sabato al villaggio le cose che ti hanno stupito di più. Che cosa dobbiamo dire da questo... Io mi diverto, ti prendo in giro, lo chiamo CES, perché mi piace chiamarlo CES. Sì. Sì, a proposito di CES, dico che chi organizza questa manifestazione, che è vecchissima, è nata nel 1967 a New York, poi dopo poco si è spostata. Quindi chissà cosa c'era in quegli anni Vegas. Lì, cioè facevano vedere le lavatrici, il frigorifero, analogiche, non lo so, certo. Sì. Beh, storicamente molti TV. Qui ah, certo. Una fiera dedicata. A proposito, per anni si è chiamato Consumer Electronics Show. Poi ad un certo punto, visto che sono arrivati in massa i produttori di automobili, la scelta è stata quella di non puntare molto su elettronica di consumo, che era una roba forse un po' vecchia. Allora l'associazione ha cambiato nome, si chiama Consumer Technology Association e non più Consumer Electronics Association, e hanno imposto ai giornalisti, però devo dire con pochissimo successo, di chiamarlo CES solo. Okay. Non Consumer Electronics Show, c'è cosa una che io ho guideline. Fatto nella prima ora del sabato del villaggio, sì, sì, quindi ma, ho sbagliato. Ah no, nella prima ora l'ho detto poco fa. Sì, sì, ma nessun americano ha seguito queste indicazioni, che ci sono proprio, cioè c'è un comunicato ufficiale della CTA, la Consumer Technology Association, che dice bisogna chiamarlo CES, e qualche italiano ha scritto facendo presente che CES in italiano si capisce quasi niente. E CES non è che elegante. Suona proprio benissimo. Dice, no, lo chiamiamo Consumer Electronics Show e basta. Cioè, non è spiegato che con il doppio senso in Italia, che non si può. Parliamo di quello che ci portiamo a caccia. Che cosa ti ricordi del CES 2016? allora, sicuramente, senza ombra di dubbio, virtual reality, realtà virtuale, che è un tema di cui si parla da un po' di tempo, e devo dire in varie forme da tantissimi anni, perché abbiamo sentito parlare di realtà virtuale da tantissimi anni. Che cosa sta cambiando e che cosa cambierà a breve? Allora, stanno uscendo dei visori, li possiamo chiamare visori, c'è chi li chiama caschetti, sono degli occhialoni giganteschi che si piazzano appunto davanti agli occhi, con tutta una bella, alcuni nastri per fissarli alla testa. Stanno uscendo sul mercato perché dopo tantissima attesa, diciamo almeno un anno e mezzo di attesa, è stato annunciato proprio al CES l'arrivo di Oculus Rift. Ah, ce l'aveva citato una volta il nostro fanatico esperto simpaticissimo di videogiochi, Emilio Cozzi, certo. Oculus Rift. Io però ho sentito che costerà un sacco di soldi. Ma allora, anche qui c'è un dibattito sul prezzo, perché il prezzo italiano, o comunque europeo, è di 699 euro più spese di consegna, che certo non è pochissimo, ma non è nemmeno tantissimo. C'è chi pensava costasse di più, e accidenti. C'è chi pensa che il principale concorrente, tra l'altro concorrente di grande qualità, che è HTC Vive, che è un altro visore di realtà virtuale che uscirà sul mercato. Non sono stati ancora annunciati i tempi di consegna, perché per Oculus si può preordinare oggi, e l'arrivo è previsto, diciamo, alla primavera. Poi vedremo se i tempi verranno rispettati. C'è chi dice che Vive costerà addirittura di più, perché poi questi visori hanno anche degli accessori, poi dipende, e vedremo anche Vive se darà e che tipo di accessori. Allora, immaginiamo che noi siamo immersi in una realtà, quindi questi occhiali servono per vedere questa realtà. Gli accessori che cosa sono sostanzialmente? Sono dei sensori che noi teniamo in mano per fare delle azioni in questa realtà virtuale. Ad esempio, stiamo giocando. Sì, faccio un esempio di che ho provato, uno dei primi che ho provato. Gioco della box. Molti sono giochi, però attenzione, sui contenuti magari spendiamo qualche parola perché non dobbiamo pensare solo ai giochi. Probabilmente se questo mondo si limiterà al mondo dei giochi, non sarà un grandissimo successo. Allora, però mi hanno fatto provare un gioco di box. Allora, per dare pugni al mio avversario, io con questo sensore nella mano davo dei pugni che, se uno mi vedeva da fuori, sembrava uno scemo dare dei pugni all'aria. Però poi io nel visore vedevo e mi sembrava veramente di dare pugni ad una persona. Poi ho giocato, ad esempio, ho fatto un giro nello spazio con un'astronave e anche qui, se vuoi fare alcune azioni sulla tua astronave, se vuoi pigiare un tasto, devi in qualche modo muovere un sensore. È un mondo da costruire, è sicuramente molto affascinante. Devo dire che è molto immersivo, come si dice, sembra veramente di essere in questa realtà virtuale. E è vero che oggi molte proposte in termini di contenuti sono videogiochi. Ecco, a cosa può servire al di là dei videogiochi? Beh, però potrebbe servire anche per vedere film e video girati con nuove modalità. Proprio qui sono state annunciate, o almeno sono state visti alcuni prototipi, qualcosina c'è già sul mercato, ma arriverà sul mercato a breve. Allora, nuove videocamere, che anche qui è difficile chiamare videocamere perché in realtà sono dei prodotti che sono una somma di videocamere. Ne cito due in particolare, una che mi ha colpito perché secondo me è costruita molto bene, di Mobileye, che uscirà ad agosto, e un'altra di Samsung di cui però non sappiamo quando uscirà sul mercato, non è stato annunciato. Allora, è una specie di grosso disco, una ventina di centimetri, 15 centimetri, con 8, c'è chi fa la scelta di 8, c'è chi fa la scelta di 3, videocamere. Riprendono a 360 gradi, quindi c'è una ripresa panoramica. Questi 8 file generati, possono essere 3, 4, insomma, dipende dalle scelte del produttore, poi vengono messi assieme da un software e viene ricreato quello che noi vediamo nella vita normale. Cioè, non una cosa che prenderà piede probabilmente in brevissimo tempo. No, sicuramente no, però è un nuovo prodotto per costruire nuovi contenuti. Quindi, ad esempio, turismo, cioè c'è una versione evoluta di Street View, che io ci potrebbe molto, anzi molto, io sono abbastanza certo che ci siano già dei programmi per fare delle riprese estensive. Tu pensa, tu mandi in giro questa videocamera, che poi è una somma di videocamere, per Roma. Dopodiché il video che catturi lo metti in questi visori e tu passeggi per Roma, ok? Bello. Cioè, è comunque una cosa divertente, bella, magari non per un uso domestico, quotidiano, però me lo immagino. Esatto, anche perché vanno dette alcune cose del tipo. Allora, questi visori nuovi, perché ci sono già dei visori sul mercato il cui display è lo smartphone, cioè c'è solo la parte ottica. Ah, certo, perché da soli però non funziona, cioè devono attaccarsi a qualcosa. Faccio sempre le domande semplici. Capisco che è ancora un mondo un po' anche difficile da comprendere, perché è una cosa veramente nuova. Allora, quello che c'è già sul mercato è la versione più rudimentale di questi visori per la realtà virtuale. E appunto hanno la parte ottica, uno acquista questo occhiale che serve appunto per la parte ottica, queste lenti servono per rendere l'immagine che noi abbiamo davanti al display a 360 gradi immersiva. Ma quelli che arrivano, Oculus e anche Vive, poi Sony ad esempio dovrà uscire, ha detto che uscirà con un prodotto per PlayStation. Ecco, questi visori hanno tutto integrato, anche il display, ma la potenza di calcolo arriva dal computer. Ecco allora che bisogna avere un computer piuttosto potente, tant'è che quando tu vai per, sul sito di Oculus per comprare Oculus, una delle cose che ti vengono dette è: occhio, fai il test per capire se il tuo computer è adatto a questo, questo sistema, perché deve essere un computer capace di rendere queste immagini fluide, perché chiaramente se tu fai un gioco, sei in mezzo allo spazio, ti giri a destra e a sinistra, vedi le astronavi, vedi gli asteroidi, se ti si pianta il computer, se la potenza di calcolo è piuttosto limitata, l'immagine non è fluida. C'è addirittura chi sta pensando di fare virtual reality in diretta, cioè quindi pensa a livello di contenuti, tutta usando la fantasia, quante cose possono venire in mente. Quindi trasmissioni televisive in diretta, però oggi si è capito che al di là di qualche esperimento da laboratorio non si può fare nulla, perché serve una potenza di trasmissione pazzesca, una potenza di calcolo in ricezione pazzesca, quindi siamo ancora molto molto lontani. Certo, c'è un ascoltatore da Cerveteri, Enrico, che ci scrive al 349-238-6666 su WhatsApp e chiede a quando l'uso militare. Io credo che qualcosa già l'uso militare esiste già perché, da tempo, sì. No, non c'è dubbio. Io ho visto un film poco tempo fa in cui c'era un militare americano che sparava in realtà virtuale, quindi l'uso militare esiste già di queste cose. Sì, ma anche per training, e infatti il settore e educazione e tutto il settore legato al business, anche per far imparare ad utilizzare prodotti, macchine, è un settore molto promettente. C'è chi dice che sarà uno degli utilizzi della realtà virtuale. Vedremo poi se tutte queste promesse saranno mantenute. Enrico, è un mondo molto interessante. Io ti chiedo solo un attimo di pausa, ci ritroviamo tra pochissimo perché appunto c'è una brevissima pausa, poi torniamo a collegarci con te con Las Vegas. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E torniamo a Las Vegas. Questi erano, io li adoravo, Hall & Oates, Las Vegas Turnaround. Torniamo a collegarci con Enrico Pagliarini, che io lo dico ancora Consumer Electronics Show, anche se non si può più dire perché bisognerebbe dire una roba ancora più complicata. No, ma diciamolo. Dice Carlo dall'Umbria che ci scrive, questa io la leggo, Enrico, io la leggo. Leggi tutto. Che questi aggeggi per la realtà virtuale verranno sviluppati per applicazioni hard. Detto tra noi, però, quella roba lì ha sempre mosso molto le tecnologie, quindi può anche essere. Sì, è vero. Però pensate al 3D. Allora, il 3D, le prime applicazioni 3D, c'è chi diceva il porno utilizzerà il 3D, quindi sarà un grande successo. Allora, in realtà non è successo. Oggi quasi tutti i televisori, insomma la stragrande maggioranza, sono 3D, anche se non lo sappiamo, anche se non lo utilizziamo. Il 3D è stato un grande flop, e infatti c'è chi dice, ed è una delle opzioni, che anche la realtà virtuale sia... possa essere un flop, perché qui si tratta di costruire un mondo e ci sono tutta una serie di, abbiamo parlato ad esempio dei contenuti, il lato dei contenuti è essenziale, certo. Cioè se ci saranno dei buoni contenuti al di là dei videogiochi, perché potrebbe essere un'applicazione che potrebbe diventare, cioè potrebbe essere limitata al mondo dei videogiochi, ma non sarebbe un grandissimo business, cioè, diciamo, chi produce queste cose punta invece ad altro, o comunque anche ad altro, quindi a film, proprio cose da vedere, e applicazioni di altro genere. Tu pensa, che ne so, ti vogliono vendere una casa che è in costruzione e ti danno un visore, tu ti metti questo visore e ti fanno passeggiare, camminare dentro alla casa vera, quella che sarà la casa finita. Quindi questa potrebbe essere un'applicazione, ma insomma le applicazioni possono, certo, essere tantissime. Vedremo quello che succederà, potrebbe anche essere un grande flop e quindi queste aziende, del resto molte delle cose che si vedono al Consumer Electronics Show sono dei tentativi, perché se noi guardiamo al mondo della smart home, qua c'è un padiglione pieno di proposte come negli altri anni, insomma, cose non ho visto cose particolarmente nuove, però ho visto molta evoluzione e ancora tantissime aziende che credono che la smart home diventerà uno dei grossi business dei prossimi anni, cioè riempire la casa di strumenti che si connettono tra di loro, si connettono ad internet, si connettono al nostro smartphone e noi abbiamo il controllo di casa nostra, quindi è un po' il vecchio concetto della domotica, però chiaramente a costi molto più bassi, con capacità molto più limitate nella implementazione di questi strumenti, quindi non c'è bisogno necessariamente del tecnico, dell'elettricista, della progettazione, ci sono molti di questi strumenti, si possono proprio attaccare anche senza collegarli alla corrente elettrica, ma tra i vari punti interrogativi c'è proprio questo. Sì, è vero, io posso andare a casa, mettere i sensori d'allarme, i sensori per vedere se una finestra è aperta o chiusa, senza fare nessun tipo di impianto, attacco questo piccolo sensore e questo ha una batteria che dura chi un anno, chi due anni, chi un po' di più, riempio la casa di questi sensori e poi fra due anni devo cambiare le batterie a 30 di questi aggeggi. Pochi giorni fa, proprio il primo giorno del Consumer Electronics Show, un cinese che parlava, eravamo in uno stand a parlare di questo tema, un cinese diceva, probabilmente uno dei prossimi servizi di chi fa le pulizie in casa è ti cambio anche le batterie di tutti questi aggeggi nella casa. Ah, beh certo, ormai ci sono tantissimi problemi aperti. Ad esempio, un altro dei problemi nella smart home, dove lo dico tra parentesi, ma va detto e sottolineato, ci sono cose fantastiche, posso veramente automatizzare e controllare la casa in modo molto semplice, molto economico, con cose veramente interessanti, però perché bisogna dire anche insomma quello che non necessariamente brilla, certo. Uno dei problemi è l'interconnessione tra vari strumenti, cioè se io compro una serie di strumenti di smart home di una tal marca. Ah, questo te lo chiedo sempre, se devo comprare tutto della stessa marca oppure no. Ecco, sì, sì. Poi adesso ci sono dei tentativi, però sono dei tentativi di aprire questi protocolli, questi linguaggi di programmazione. Noi ad esempio abbiamo parlato perché sono uno strumento, anche qui ho visto tantissime proposte, sulle lampadine. Lampadine che fanno da sensore d'allarme, lampadine che ti evitano di accendere la luce con l'interruttore perché hanno integrato il sensore di presenza, che si connettono in wifi, cose del genere. Però anche in questo caso, io nel mondo di oggi sono abituato che compro la lampadina della marca X, della marca Y. Le va sempre e bene. Tutto va bene, no? Ecco, nel mondo della smart home devo sapere se le due cose dialogano. Ci sono dei tentativi, c'è qualche cosa che si sta affacciando sul mercato, è un'evoluzione lenta, vedremo che piega prenderà. Enrico, io ti aspetto in studio la prossima settimana. Sì, possiamo parlare 8 ore delle cose che ho visto, perché devo dire, così mi racconti ancora un po' di cose, perché adesso noi dobbiamo parlare di cinema. Sì, sì. Quindi adesso io ti do mi sono anche ricordata che film era Good Kill con Ethan Hawke di Andrew Niccol. Non mi era neanche piaciuto granché, però era proprio questa cosa di realtà virtuale applicata agli usi militari. Enrico, allora ci rivediamo presto e spero in studio la prossima settimana, così ci racconti ancora tutte queste cose belle dal CES, va bene? Molto bene, buon pomeriggio a voi. Ciao. Grazie Enrico, buona giornata a te a Las Vegas. Noi adesso parliamo appunto di cinema. Il nostro Signore, sin da quando siamo bambini, ci dona dei talenti. La veterinaria, lo scienziato. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. Quale compito indispensabile ha svolto in questo ufficio provinciale per 15... No, no, no, non si arrabbi, no, eh? No, non si arrabbi, questo è il compito. Sa dove la mamma? Al circolo polare artico! Fa freddissimo, va! Più di lo carato, di più! La Prima Repubblica non si scorda mai, la Prima Repubblica, tu cosa ne sai? Dei quarantenni pensionati che danzavano sui prati dopo 10 anni volati all'aeronautica, e gli uscieri paraplegici saltavano e i bidelli sordomuti cantavano. E questo è ovviamente Checco Zalone, un successo, lo avevamo previsto, clamoroso nei cinema, ma forse ancor più clamoroso di quello che potevamo prevedere. Ha stravolto letteralmente i cinema italiani. Ovviamente ne parlerà questa sera tantissimo Franco D'Assisi nella Rosa Purpurea. Buonasera Franco. Un saluto a te, buon anno a te Marta e a tutti gli ascoltatori. Sì, ne parleremo ampiamente nella Rosa Purpurea in onda alle 18, più che altro adesso non c'è molto, molto più da dire, il successo è clamoroso. Ed è ancora più clamoroso, come giustamente dicevi tu, di quanto ci si potesse aspettare, di quanto avesse già fatto Zalone col film precedente Sole a Catinelle. Però sarà con noi Antonio Autieri, direttore di Box Office, che è una rivista che si occupa proprio di questo aspetto del mercato del cinema, e scopriremo che sembra incredibile, ma un film di questa popolarità sta avendo pochissimi scaricamenti pirata. La gente, soprattutto i ceti più popolari, eccetera, vogliono andarlo a vedere sul grande schermo. Franco, cos'altro possiamo andare a vedere questo fine settimana per chi avesse già visto Checco Zalone o per chi non volesse andare a vedere? Guarda, intanto dico una cosa che c'è già dal 1 gennaio come Zalone, che sta andando molto bene in proporzione. Sta andando bene come Zalone, anche se ovviamente ci si aspettava qualcosa di meno, ma stando veramente oltre le previsioni, che è Il Piccolo Principe, che ha toccato quota 5 milioni di incasso in 6 giorni e sta veramente veleggiando alla grande. Poi le novità invece di questo weekend, comincerei da un film che sta già godendo dei favori della critica, 5 candidature ai Golden Globe, parliamo di Carol con Kate Blanchett e Rooney Mara, la storia ambientata nel Natale del 52 a New York, di una donna attraente, altolocata, intrappolata in un matrimonio di convenienza, e del suo incontro con una ventenne che lavora in un grande magazzino di Manhattan, e tra le due donne ci sarà un'alchimia che racconterà le loro storie, e scopriremo un film, una mano molto ferma in regia di Todd Haynes, che ricorda sempre più il grande melodramma americano di Douglas Sirk. Un'altra proposta di questa settimana è Macbeth. Qui siamo alla 7ª versione cinematografica del dramma di William Shakespeare, stavolta regia di Justin Kurzel, attori protagonisti Michael Fassbender e Marion Cotillard, e quindi una coppia che fa davvero locandina, però con una racconto molto molto fedele, anzi addirittura filologico del dramma di Shakespeare. Quindi sarà sicuramente soddisfatto sia chi ci arriva con un coté letterario alle spalle, sia chi si aspetta le grandi interpretazioni al cinema, e qui Michael Fassbender è davvero eccezionale. Dico anche di un altro film, Marta, che potrebbe anche arrivare in zona Oscar, si intitola La Grande Scommessa, diretto da Adam McKay, attori Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Selena Gomez, Marisa Tomei, Steve Carell, Melissa Leo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, che racconta ancora una volta quel momento del 2008 in cui la crisi mondiale stava per cominciare e chi lo ha capito prima ne ha approfittato ed è diventato ricco. Un film veramente mozzafiato per i ritmi, quello diretto da Adam McKay, che ci sentiamo di consigliare. Film italiani, Zalone a parte, c'è qualcosa da vedere? Sì, c'è anche spazio per il cinema italiano, Laura Morante, la solita, consueta delicatezza, qui anche da regista, insieme a Francesco Pannofino, Gigio Alberti, Carolina Crescentini, per fare alcuni dei nomi più importanti del cast, racconta la storia di una donna fragile, Flavia, con due matrimoni alle spalle, due figli, una donna che cerca molto negli altri la propria consacrazione, la propria sicurezza, un film che può essere una bella sorpresa per chi ama questo genere di cinema italiano. Grazie a Franco D'Assisti, appunto a più tardi con La Rosa Purpurea. Assolutamente, ci sentiamo alle 18, torneremo anche a giocare insieme dopo le due puntate speciali di Natale e di Capodanno, che ricordo si possono trovare anche in streaming, soprattutto quella di Capodanno, perché racconta tutto il meglio dei film che vedremo nel primo semestre del 2016, e poi appunto tutto il cinema che c'è come sempre alla Rosa Purpurea. Il sabato del villaggio. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. E abbiamo detto poco fa che ieri era il compleanno di Elvis Presley, ma evidentemente l'8 gennaio è un giorno molto molto molto fortunato, perché ieri era il compleanno anche di David Bowie, e il regalo l'ha fatto a noi per i suoi 69 anni, perché è uscito con un album nuovo. Io sono assolutamente, io ho gli occhi a cuoricino, non so come altro parlare di questo album, allora chiedo una mano a un amico che corre sempre in mio soccorso quando devo parlare di musica, è il critico musicale del giornale. Buonasera Paolo Giordano, ciao Paolo. Eccomi, ciao a tutti, ciao Marta. Dai, parliamo un po' di retroscena. Ieri eravamo seduti insieme da Morandi e Baglioni, che abbiamo sentito prima. Gli ho detto, Paolo, ma domani ce li hai 10 minuti per me per raccontare il disco di David Bowie. Funziona così, ci si mette d'accordo così. Siamo messi d'accordo, anche perché io ho accettato subito, perché questo è un disco particolare, pazzesco. È un disco uscito nel giorno del 69esimo compleanno di Bowie. Mica poco, eh? È il fatto di essere ancora così curiosi a 69 anni con la carriera che hai alle spalle, vuol dire che comunque sei un artista dentro fino in fondo. E difatti, non so come dirti, a me è piaciuto molto questo disco, un disco difficile, ma se tu guardi le recensioni mondiali uscite ovviamente immediatamente dopo la pubblicazione del disco, il risultato è altissimo. Il risultato è altissimo, peraltro il risultato è, lo so che, voglio dire, mi sembra di sprecare aggettivi, perché stiamo parlando di veramente un genio, però è un risultato modernissimo, cioè è una cosa che i ventenni si sognano. Ma non solo questo, ma sai, Bowie ha avuto questa intuizione, fare un album rock, più o meno rock, ma usando musicisti jazz, che hanno un approccio diverso, che suonano in un modo diverso, che suonano la batteria in un modo diverso, la chitarra in un modo diverso, ma portandoli in un contesto, in una partitura rock. E il risultato è stato un disco gotico, anche decadente, cupo, ma un disco vivo. Quanti dischi vivi sentiamo in giro oggi? Verissimo, verissimo, hai ragione Paolo. È così, cioè è un disco vivo di uno curioso. E quando si è curiosi, un artista, quando è curioso, un artista non invecchia. Rimane a prescindere dall'età, dai quasi 70 anni, dai quasi 50 anni di carriera, rimane comunque un artista punto di riferimento. E quello che colpisce di Bowie, che non si fa più vedere da anni, non fa concerti da più di 10 anni, non ha fatto dischi per 10 anni e è uscito all'improvviso, quello che colpisce di Bowie è che comunque è un punto di riferimento. E quando sei un punto di riferimento senza andare in televisione nel 2015, vuol dire che sei forte. Questo album non è enorme, sono 7 tracce? Sì, esatto. È enorme, tracce di durata, lui fa, è chiaro, fa quello che vuole lui, pezzi di 10 minuti, così si fa. Secondo te c'è qualcuno... Che possa dire che a David Bowie, no, guarda, no, taglia la canzone, non credo. David, 4 massimo, 4 minuti massimo, stiamo corti, esatto. Anche perché qua, se poi lo dobbiamo mandare in radio, deve essere un po' più brevino sto pezzo, no, vabbè. Esatto. Sette pezzi, 2 li avevamo già sentiti, però lui li ha riarrangiati, ha fregato tutti. Sì, esatto, è così. Sia il singolo uscito per primo, che tra l'altro ha un video, non so se l'hai visto, non so se l'avete visto, ma è un video... inquietante, pieno di simbolismi, molto particolare, e poco prima di Natale è uscito Lazarus, che è un altro singolo, diciamo, non facilissimo, non commerciabile, non digestibile, non proprio di quelli più esaltanti dal punto di vista radiofonico. Però quello che colpisce, proprio per quello che ci stavamo dicendo prima, è che le radio italiane nella loro gran parte non trasmettano Bowie come in realtà meriterebbe di essere trasmesso. Sì, perché le radio che fanno musica, diciamo che noi ci chiamiamo un po' fuori da questo, noi Radio 24 ci chiamiamo un po' fuori, perché parliamo di musica senza avere il cosiddetto airplay, cioè ecco. No? Quindi deve avere il tempo massimo oltre il quale non può essere lungo un brano, questo non va bene. Questo sarebbe, infatti ci si perde l'occasione di sentire questo disco di David Bowie. Noi più volte abbiamo detto, Paolo, che ormai sono questi grandi quelli che muovono ancora i sentimenti dei fan e anche il mercato, perché abbiamo visto che durante queste feste di Natale tanti hanno comprato i cofanetti, i best of, le grandi raccolte. Sono questi grandi che muovono ancora tutto ed è un momento di grandi ritorni, sì. Perché ho sentito anche che c'è qualcosa di nuovo sul fronte dei Guns N' Roses. Ma sì, su questo è un piccolo vezzo, perché sono stato forse, sai, tra giornalisti si usano queste competizioni, sono stato forse il primo a scrivere che i Guns N' Roses si sarebbero riuniti nella formazione originale, e in effetti è così, e tra parentesi confesso che sto già preparandomi per andare al Coachella ad aprile a vederli. Ma questo cosa vuol dire? Al di là della contingenza, cioè nel caso di Guns N' Roses, Axl o lo fa adesso, non lo fa mai più, perché la voce non, insomma, sta andandosene, diciamo così. Ah, dici che è l'ultimo fuoco per Axl Rose, cioè a differenza di David Bowie, che certo non, esatto. Stiamo parlando di una cosa diversa, stiamo parlando di età diverse, periodi storici diversi, sì, e questi perché, tornano live. Ma anche perché il repertorio di Guns N' Roses è talmente impegnativo per un cantante di 55 anni che ha composto quelle canzoni quando ne aveva 25, che non so, non riesco a immaginarmi che possa ripresentarsi sul palco a 65 anni, perché non può cantare quelle canzoni. Mi ricordo che quando i Led Zeppelin si sono riuniti nel 2007 alla O2 Arena, Robert Plant ha chiesto a Jimmy Page di abbassare di un'ottava, di abbassare di un tono, perché non ce la faceva a cantare le canzoni che aveva composto quando aveva 20 anni. Beh, devo dire in tanti si fanno abbassare di un tono due le canzioni, però devo dire che per questi rocker è anche un impegno fisico un po' particolare. Oltretutto poi dipende anche dal fatto di dipende anche dal tuo vissuto, non so come dire, se tu sei un consumatore abituale di certe sostanze. Ecco, questa cosa qua bisogna dirla, perché questi rocker, anche perché prima abbiamo ascoltato all'inizio di puntata, all'inizio della seconda ora della puntata, due grandi che sono Morandi e Baglioni, che sono due persone in formissima non so come si possa dire, attentissimi alla salute, alla forma. Questi rocker come i Guns N' Roses hanno vissuto vite un filino più dissolute. Diciamo che sono andati da fare. Esatto. Se ho un minuto di tempo, ce l'abbiamo. Una cosa. Adoro i racconti di Paolo Giordano. La prima grande intervista che ho fatto è stata a Torino, quando i Guns N' Roses sono venuti a suonare allo stadio allora olimpico, con il Soundgarden e Faith No More. E io ero, diciamo, per una radio locale di Alessandria che non aveva alcun diritto di entrare, ma mi ero sbattuto talmente tanto per avere gli accrediti e la possibilità di intervistare sia i Soundgarden che i Guns N' Roses da riuscirci. E quindi avevo un incontro con Chris Cornell, che ho incontrato, e poi con uno dei Guns N' Roses. E in realtà avrebbe dovuto essere Slash, che però era collassato. Certo. Aspetta. E mi hanno detto che non era possibile incontrarlo, che non sarebbe stato possibile incontrarlo. E io dentro di me ho pensato, sì, la solita storia, la solita bugia. In realtà era vera, perché un mio ex compagno di liceo, che allora faceva la guardia medica a Torino, mi raccontò giorni dopo che fu chiamato nell'hotel di Guns N' Roses perché dentro l'ascensore era collassata una persona. Allora, questa persona... Noi ridiamo, sono cose che però quando si conosce l'ambiente del rock fai una risata amara e un po' rassegnata, perché poi immagino che poi tu in un secondo momento col prosieguo della tua carriera abbia capito che è una cosa normale. Al momento non ci credevi, però è una cosa che succede. E la cosa aggiungo che quando mi ha detto che quando ha dovuto visitare la persona, con tutto il rispetto, perché io sono un fan enorme di Guns N' Roses, lui ha detto che non è appassionato di musica, lui mi ha detto non ho capito se fosse un barbone o un alcolizzato, perché puzzava talmente tanto sia di alcol che del resto, non capivo bene cosa fosse. Vabbè, si saranno messi un pochino in forma per questo grande festival che è il Coachella americano, nel quale faranno una reunion. Paolo, ti voglio salutare però ancora con un pezzettino di David Bowie. Dai, vai. Chiedo neanche a Paolo Giordano, critico musicale del giornale, se lo consigliamo questo Black Star di David Bowie, perché mi pare che insomma sia abbastanza scontato, perché è talmente immenso David Bowie che esce con questo album molto particolare, ma molto molto bello. Paolo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre bello parlare con te, Marta, e parlare di musica su Radio 24. Grazie, poi questa musica c'ha anche la M maiuscola. Grazie Paolo per essere stato con noi. Io spero di averti presto in studio. Bello poter ascoltare anche solo qualche nota di David Bowie, che mi terrà compagnia per tutto il fine settimana. Ve lo confesso, già alle 18, quando avremo finito con la nostra diretta, io mi dedicherò assai a questo nuovo album di David Bowie. Io dico 18 perché ora è il momento del giornale radio delle 17, ma poi ci troviamo ancora per la terza terza ora del sabato con RadioTube. Daniele Bellasio è già arrivato, lo vedo in regia, ci risentiamo tra poco, tra pochissimo.